We have had some technical problems. Ready to go. 2 0 2 4 4 2024. In questa puntata di 2024, nel nostro approfondimento principale parleremo di social network. Arrivano ai 20 milioni di utenti, pari a circa l'80% di tutti gli utenti internet. La cosa che registriamo per la prima volta quest'anno è una sorta di crescita zero dopo tanti anni di crescita vertiginosa. Sarà con noi tra poco il country manager di Facebook Italia per parlare delle novità del social network più utilizzato al mondo. E poi, cosa pensano gli editori di giornali italiani dei servizi di pagamento e gestione degli abbonamenti lanciati da Apple e Google? Il rischio che soggetti in questa posizione abusino della loro forza sul mercato per dettare delle condizioni che non sono totalmente eque rischia di essere un danno per le imprese editrici e a cascata anche per i consumatori. E ancora le notizie della settimana e la nostra rubrica in collaborazione con National Geographic Channel. Oggi parleremo di aeroporti. C'è tutta una serie di sensori che rilevano il passaggio del velivolo, il senso del moto, quindi se va da destra a sinistra, la velocità e possibilmente anche riconoscere il tipo di velivolo che sta transitando. 2024 di Enrico Pagliarini. Siamo di nuovo insieme, buon pomeriggio, sono le 15.32 minuti, questa è la puntata del 26 febbraio 2011, quella che avete sentito è l'anteprima dei temi di questa nuova puntata di 2024, io sono Enrico Pagliarini, grazie come sempre a tutta la nostra redazione che saluteremo anche tra poco. Prima dei nostri approfondimenti giochiamo e oggi balliamo anche un po', lo scoprirete tra poco il perché, con Stefano Gallarini. Video game. Nuova puntata dedicata al mondo dei videogiochi e come sempre si comincia con la soluzione del gioco della settimana scorsa. Per sconfiggere il mostro di fine livello dovete necessariamente superare i primi due livelli ed ecco quindi le risposte. Livello 1. Per gli inglesi significa per. La risposta era for. Livello 2. Il mese della mamma. La risposta era maggio. Così, mettendo insieme le due parole, come si fa in una charada, si ottiene formaggio. Il mostro di fine livello chiedeva: mostro di fine livello. Ne va ghiotto. La risposta ovviamente era topo, ovvero l'animale che va ghiotto proprio di formaggio. Complimenti a Salvatore di Termini Imerese che si porta a casa il sensore Kinect e due giochi, tutto rigorosamente Microsoft. Veniamo ora al gioco di questa settimana e come al solito dovrete risolvere i due livelli per sconfiggere il mostro di fine livello e avere la soluzione da inviare a videogiochi@radio24.it. In premio ancora per questa settimana il sensore Kinect e due giochi Microsoft per Xbox 360. E questa volta le cose si fanno un po' più difficili. Livello 1. L'andatura intermedia del cavallo. Nella puntata di oggi vedremo di rendere più sciolti i nostri movimenti. Preparatevi per una gara di ballo. Occhio! È qui che do il meglio. Stai indietro, quando ballo sono esplosivo. Era il 1998 quando Konami realizzò per le sale giochi un titolo che avrebbe rivoluzionato il modo di divertirsi. E per vincere la sfida, infatti, non bisognava usare le mani per premere pulsanti o per muovere il joystick. Era necessario usare i piedi. La rivoluzione era in atto, tutti in pista con Dance Dance Revolution. Non è solo bravura, ci vuole anche il dash. Ehi, guarda un po' questo passo. La console da sala giochi occupava molto spazio perché davanti al cabinato c'era una sorta di ring metallico sulla cui pedana erano collocati dei quadrati luminosi. E i giocatori dovevano stare al centro della pedana, scegliere la canzone e seguire a tempo la sequenza di passi che veniva proposta spostando i piedi a destra, a sinistra, in alto e in basso. Il titolo ebbe un enorme successo, soprattutto in Giappone, e venne anche convertito in una versione casalinga con tanto di tappetino. Oggi le cose sono cambiate e grazie al sensore Kinect e all'Xbox 360 per ballare basta solo usare il corpo e muoversi a tempo. Siamo entrati nell'era di Dance Central. Dacci dentro se lo conosci già. 5, 6, 7, 8. Fuori classe! Niente male. Vuoi provare a farli in sequenza? Non agitarti, puoi farcela. Indossate dunque l'abbigliamento adatto e preparatevi alla sfida. Intanto, ecco la seconda parte del nostro gioco. Livello 2. La nota che accorda. Torniamo a parlare di Dance Central e anche in questo caso lo scopo è quello di muoversi a tempo con una serie di passi e di movimenti che verranno indicati di volta in volta dal ballerino virtuale presente sul video e che noi dovremo seguire come se ci trovassimo davanti a uno specchio. A differenza però di Dance Dance Revolution, che necessita di un tappeto che serva a capire dove abbiamo i piedi, il sensore Kinect permette di vedere tutto il corpo e così non saranno solo i piedi a dover seguire le movenze giuste, bisognerà anche muovere correttamente le braccia e il busto. Prima di esibirsi, un coreografo ci insegnerà tutti i passi necessari per affrontare la sfida. 5, 6, 7, 8, croce, dietro, destra, front, forza, dacci dentro. 5, 6, 7, 8, croce, dietro, destra, front. Forse se ci lavori su. Una volta imparati i passi, diversi per ogni canzone, e che se sono troppo difficili possono anche essere rallentati in modo da capire bene quali siano i movimenti, sarete pronti per l'esibizione vera e propria. Un riquadro a destra dello schermo vi indica quali sono i passi che dovrete eseguire e se tutto filerà liscio, vi ritroverete davvero a ballare come non vi siete mai visti. Vi garantisco che vi meraviglierete di voi stessi. Come ballerina e stilista sono imbattibile. Dance Central è una sfida che appassiona, soprattutto se giocherete contro i vostri amici, anche perché è davvero un piacere e uno spasso vedere gli altri che si mettono a ballare con tanto di coreografie ben costruite. E Dance Central, fra l'altro, sarà lo sponsor principale del tour europeo di Kylie Minogue, Aphrodite Le Folie, e proprio perché il titolo permette di esibirsi in vere e proprie coreografie degne di una pop star. E prima di passare alla classifica dei giochi più venduti della settimana, ecco la terza parte del nostro gioco, il mostro di fine livello da sconfiggere con la risposta giusta alla domanda che sto per farvi. Chi invierà la risposta corretta per primo si porterà come sempre a casa il sensore Kinect con Kinect Adventures e un altro gioco per Kinect offerti da Microsoft. La risposta a videogiochi@radio24.it. Mostro di fine livello. Quelle di legno funzionavano così. E adesso è il momento della classifica. Stabile al quinto posto, il gioco che unisce amici e famiglia in una festa del divertimento, Wii Party. Al quarto posto resiste in classifica la voglia di mettersi in forma e di riprendere tono con Wii Fit Plus e la Balance Board, esclusivamente per la console Nintendo Wii. Al terzo posto rientra il gioco per Nintendo DS che insegna l'arte del dipingere, Art Academy. Al secondo posto si balla ancora con l'aiuto della Nintendo Wii con Just Dance 2. E al primo posto resiste la piattaforma Wii con l'idraulico Mario che si cimenta con pallavolo, basket, dodgeball e hockey in Mario Sport Mix. Al prossimo sabato, un saluto da Stefano Gallarini. Game over. Ricorderete che la scorsa settimana abbiamo parlato di un paio di servizi per la gestione degli abbonamenti online o per la vendita di contenuti come quelli ad esempio di un quotidiano che propone notizie. Sapete che oggi c'è un grande dibattito e gli editori si domandano: riusciremo a far pagare le notizie, visto che la produzione delle news costa molti soldi, soprattutto quelle di qualità, e ce ne vorrebbero di più di qualità, ma questo è un problema soprattutto degli editori più che dei giornalisti che lavorano su indicazione degli editori e dei direttori. Naturalmente c'è questo grande dibattito sul pagamento delle notizie. Abbiamo parlato la scorsa settimana di due servizi, uno è stato presentato dalla Apple, si chiama Subscriptions, e la Apple richiede il 30% di commissione, mentre Google ha lanciato due giorni dopo un servizio che si chiama OnePass. Google si accontenta del 10%. Che cosa ne pensano di questi servizi gli editori italiani? Abbiamo sentito Carlo Malinconico, che è il presidente della FIEG, che è la Federazione Italiana degli Editori di Giornali. Ma noi vediamo questa proposta come un'opportunità, lo dico subito, perché non c'è dubbio che si tratta di operatori settori, questi di cui abbiamo parlato, che hanno investito, che investono molto e che riescono a produrre dei sistemi che sono estremamente attraenti e quindi possono contribuire anche ad un allargamento, non c'è dubbio, della platea, attirando lettori, nuovi abbonati, quindi noi vediamo queste iniziative con favore. Però con grande attenzione, noi siamo attenti a due elementi fondamentali, in sintesi al fatto che si tratta di operatori che hanno una posizione, se non di monopolio, certamente una posizione dominante, sia Google che Apple, e quindi il rischio che soggetti in questa posizione abusino della loro forza sul mercato rischia di essere un danno per le imprese editrici e a cascata anche per i consumatori. Quale altro problema, quali altre minacce, rischi vedete? Ma per esempio, ecco, rispetto se si accetta, noi non vorremmo, lo dico in sintesi ovviamente, spero di non essere frainteso perché ovviamente non penso che né l'uno né l'altro siano il diavolo, ma non vorrei che tutto fosse giocato con un patto con il diavolo, cioè il diavolo è affascinante, no? E dice vieni da me perché con me, con la mia piattaforma, con la mia diffusione, perché noi siamo molto bravi a presentare tutti questi programmi, a fare questi pagamenti, micropagamenti, ti agevoliamo nel diffondere il tuo prodotto editoriale. Questo è fortemente attrattivo e attraente per gli editori. Qual è il gioco? Il fatto che si prevedono delle clausole restrittive, per esempio se tu vieni da me come edicola virtuale non puoi andare da un altro, cioè ti impongo sostanzialmente un'esclusiva, ti impongo di che tu se pratichi da un'altra parte delle condizioni migliori le applichi anche da me. Ora, non tutte queste clausole poi alla fine è detto che siano negative, ecco, sto dicendo soltanto che però bisogna fare molta attenzione perché se negli Stati Uniti prima di tutto, ma anche adesso io vedo a livello europeo l'EMPA, l'Associazione Europea degli Editori, hanno manifestato preoccupazioni, e perché si teme, e bisogna verificarlo, stiamo verificando perché sono delle novità, che attraverso queste clausole in qualche modo il mercato invece che allargarsi si stringa, si chiuda e ognuno di questi grossi operatori, grandi operatori internazionali che hanno tutta quella valenza e potenza che dicevamo, in qualche modo catturino, ecco, e noi, l'editore, e non gli consentano poi però di fare più una sua politica, oppure anche di venire in contatto con i lettori. Qui il tema è affascinante, forse lungo, ma è bello. Il lettore, come dire, vale non solo perché lettore, ma perché porta i suoi dati al motore di ricerca, che poi lo può immagazzinare questi dati, può vendere pubblicità. Ecco, tutto questo va guardato con attenzione, non con particolare diffidenza, ma con attenzione. A tal proposito ricordo che già negli Stati Uniti alcuni editori si sono messi assieme per lanciare una piattaforma, quindi gestita in proprio, per vendere contenuti, una sorta di edicola virtuale che si chiama OnGo, e anche in Francia all'inizio di marzo, quindi tra pochi giorni, verrà lanciata una piattaforma per vendere anche in questo caso notizie, che si chiama j'aime-l'info.fr, quindi amo-l'informazione.fr. Questo è un tema estremamente importante ed estremamente interessante in Italia, questo ce lo diceva anche il presidente della FIEG Malinconico che abbiamo appena sentito, non esiste un progetto, si sta pensando e discutendo ma ancora non c'è sul piatto nulla. 2024. Saluto Luca Colombo che è country manager di Facebook per l'Italia, benvenuto a 2024 Luca. Buongiorno a tutti. Tu fino a 4 mesi fa facevi altro, quindi la tua posizione è nuova e anche diciamo i vostri uffici sono molto nuovi. Sì, siamo presenti in Italia da non moltissimo tempo, 1 anno e mezzo, la struttura sta crescendo, stiamo continuando a crescere, nel senso che stiamo cercando persone, quindi siamo agli inizi. Poi parleremo anche del, come si dice in gergo, recruitment, quindi delle persone che state cercando per lavorare con voi. Qua in Italia voi lavorate anche sulla piattaforma tecnologica o sostanzialmente seguite tutta la parte commerciale? L'ufficio italiano è prevalentemente commerciale. È chiaro che siamo da punto di contatto per le aziende. Lo sviluppo tecnologico, come lo definisci tu, cioè il prodotto, è disegnato e pensato a Palo Alto, quindi centralmente in California. California. Vi ricordo che oggi ascolteremo anche la voce degli ascoltatori. Se volete chiamarci per parlare con Luca Colombo di Facebook, ma forse anche di altre cose che riguardano il mondo della tecnologia, il nostro numero verde è 800 24 0024. Tu prima mi dicevi, io adesso scherzo sul fatto che Facebook nei nostri studi è stato bloccato perché poi qualcuno si distraeva e passava troppo tempo, diciamo, nella nostra redazione normalmente lo utilizziamo anche per lavoro. Esiste una pagina di Facebook di 2024 su Facebook. Tu dicevi prima, ti ho appena fatto un check-in, sì, che sarebbe? Mi sono appena registrato qua al Sole 24 Ore, ho fatto una foto dello studio per dire che sono presente in questo momento, mi potete vedere sulla mia pagina, e giusto per utilizzare una delle funzionalità di Facebook che permette di tenere traccia di dove io sono presente fisicamente, non parliamo quindi di web. Peccato che non possiamo vederlo, perché magari è un modo per interagire con... Esatto, qua non lo possiamo vedere, potremmo dopo uscire oppure col cellulare. In effetti molti ascoltatori nei mesi scorsi, nelle settimane scorse, mi hanno scritto dicendo: la mia azienda, giusto o no, non lo so, poi ognuno nella propria azienda decide quali sono le strategie, ci blocca Facebook o altri servizi dalle 8 a mezzogiorno, magari ci lascia liberi di navigare da mezzogiorno alle 2, poi ce lo tornano a bloccare, eccetera, eccetera. Succede però che ormai state estendendo il vostro servizio sui cellulari. Addirittura la settimana scorsa mi hanno raccontato anche gli ascoltatori, che sono stati presentati dei cellulari che hanno il tasto con la F. Sicuramente Facebook oggi ha una presenza sui cellulari molto importante, poi magari vedremo anche i numeri più tardi. Comunque diversi milioni di utenti ogni mese, ma anche ogni giorno, lo utilizzano. Di conseguenza, proprio per seguire il tuo ragionamento, non è soltanto il web oggi un modo per accedere a Facebook, ma è proprio il cellulare e l'integrazione tra i due mondi la chiave per renderlo di successo. Credo che questa situazione comunque sia destinata a cambiare, perché Facebook è, come dicevamo prima, giovane in Italia, ma anche come prodotto tutto sommato ha una vita relativamente breve. È una questione di abitudine, cultura. Siete molto giovani. Da quanto esiste Facebook? 7 anni. Da 7 anni, ma è famoso forse da 2-3. In Italia la crescita piuttosto importante si è registrata dal 2008, credo. Sì, è incredibile che in così poco tempo voi siate una delle cose in assoluto, non parlo solo di internet, famosa quanto la Coca-Cola, la Nutella, cose nel mondo. Perché devo dire che anche chi non utilizza, poi giustamente tu dicevi, poi vedremo i numeri, anche chi non utilizza questo servizio sa cos'è, sì, o comunque conosce il nome. Il nome è molto famoso oggi anche perché in tanti cellulari o PC è presente, quindi se consideriamo che oggi internet è almeno raggiunge circa il 50% delle persone in Italia, e oggi noi abbiamo circa 20 milioni di utenti che lo utilizzano ogni mese, capisci che la penetrazione sulla popolazione è importante, e quindi questo rende il brand famoso. A proposito del nome, che cosa significa Facebook? Che alcuni, traducendo insomma simpaticamente, dicono faccia libero, perché la traduzione letterale è più o meno questa. Fa riferimento all'origine, che è stata nelle università, quando gli album, quantomeno le fotografie degli annuari universitari, erano stati utilizzati per costruire questa serie, questo elenco di amici e conoscenze presso, ripeto, ambito universitario, e da questo fenomeno poi dopo si è tradotto Se fossimo americani sapremmo che cos'è il Facebook, perché esiste nelle università, nei college, eccetera, eccetera. Adesso abbiamo alcune notizie. Digital News. Partiamo dall'Apple, che ha convocato i giornalisti per un evento che si terrà mercoledì 2 marzo a San Francisco, e dove verrà presentato con ogni probabilità la seconda generazione dell'iPad, a quasi un anno dall'esordio del tablet di Cupertino. Nel frattempo, uno dei prodotti più attesi sul mercato, ovvero lo Zoom di Motorola su piattaforma Android, è in vendita da qualche giorno negli Stati Uniti a $799. Vi devo dire anche che la Motorola ha ricevuto, hanno fatto causa alla Motorola perché ha utilizzato il nome di un altro servizio, ma questo succede molto spesso. Digital News. Parliamo di televisione italiana, si è chiusa definitivamente l'avventura di Dalia, che ha terminato le proprie trasmissioni dopo i tentativi andati a vuoto di trovare nuovi finanziatori. La TV a pagamento sul digitale terrestre aveva circa 300.000 abbonati. Ora le frequenze potrebbero finire a Mediaset, che certo non ne ha bisogno di altre frequenze, mentre è più incerto il destino dei diritti del campionato di calcio. A proposito di Mediaset, è molto interessante il nuovo servizio premium Net TV, che combina, dicono in TV Net TV, io dico Net TV, che combina digitale terrestre e internet. Di fatto i clienti della Pay TV di Mediaset potranno vedere film o programmi on demand, quindi a richiesta, che verranno prelevati da internet. Per utilizzare il servizio servirà un nuovo tipo di decoder, tanto per complicare le cose. Di questo, dell'evoluzione della TV, parleremo presto, perché questo è un aspetto molto molto interessante. Ferrovie dello Stato e Telecom Italia hanno prolungato di nuovo e fino al 31 marzo l'offerta che permette di utilizzare gratuitamente il Wi-Fi a bordo dei treni Frecciarossa. L'obiettivo ufficiale, quello che leggiamo nel comunicato stampa, è dare la possibilità ad un numero maggiore di clienti di sperimentare il nuovo servizio. Questa è sicuramente una buona cosa. In realtà direi che ancora non è chiaro quanto i consumatori siano disposti a pagare per un servizio di questo genere. Un'altra notizia che riguarda Telecom Italia, che ha annunciato che da martedì 1 marzo potrebbe introdurre sulle ADSL Alice, che sono circa 7 milioni in Italia, meccanismi temporanei e non discriminatori di limitazione all'uso delle risorse di rete disponibili. Cioè, in caso di eccessivo uso della banda, potrebbe Telecom limitare l'uso di quelle applicazioni che tendono a saturare la rete, come il peer-to-peer ad esempio. Wind e Tele2 prevedono da tempo limitazioni simili. Bisognerà poi capire cosa e come verrà limitato. Ultima notizia: Intel ha presentato una nuova connessione per computer che potrebbe prendere il posto, ma in un futuro un po' lontano, il posto della USB. Si tratta e si chiama di Thunderbolt, sì, e che ha debuttato sui nuovi MacBook Pro della Apple. È il doppio più veloce della USB 3.0, 20 volte della USB 2.0 e 12 volte più veloce del FireWire 800. I primi accessori con Thunderbolt potrebbero arrivare in estate, mentre nei PC dovrebbe arrivare il prossimo anno. Abbiamo un minuto prima di dare la linea alle notizie del giornale radio. Vi ricordo il nostro numero verde 800 24 0024 per parlare con Luca Colombo, che è country manager di Facebook per l'Italia. Luca, vorrei che tu ci dicessi qualcosa sulle persone che state cercando, perché questa è una domanda che facciamo a tutti i nostri ospiti, che sono fortunatamente a capo di aziende che crescono, visto che purtroppo ci tocca commentare all'interno del giornale radio notizie di aziende che sono in difficoltà. Questo non è il vostro caso, di sicuro. Beh, essendo relativamente giovani e comunque in forte crescita, la richiesta di risorse è forte altrettanto, e quindi in questo momento le figure che stiamo cercando sono di tipo commerciale, definite account executive e account manager. Quindi una cosa che mi dicono spesso persone che lavorano in ambito internet: facciamo fatica a trovare profili adatti, prima di tutto perché parliamo di nuove aziende, perché non è che uno è esperto di social network, una cosa che fino a poco tempo fa non esisteva. Anche per voi è un problema? Ma in generale la conoscenza e l'informatizzazione non è qualcosa di così forte nel nostro paese. La conoscenza dei computer, quindi, e la conoscenza del mezzo non è una cosa che facciamo così, che si trova facilmente nel nostro paese. Coniugato poi alla ricerca di persone che conoscono il mondo pubblicitario, rende ancora il compito ancora più arduo. Complesso. Esatto. Bene, ci risentiamo tra poco. Adesso le notizie di GR24. Vi aspettiamo al nostro numero verde oppure all'email 2024@radio24.it o gli sms. 2024. Alle 16:06 minuti riprende questa puntata di 2024, che troverete anche all'interno del nostro sistema podcast, un sistema molto utilizzato. Sono sempre più le persone che, o dopo la trasmissione o perché se la sono persa, vanno su internet. Sarà disponibile attorno alle 18, massimo 18:30. Questo è l'impegno che ci siamo presi con gli ascoltatori. Troverete il file MP3 della nostra trasmissione. Grazie a Paolo Corleone, il nostro tecnico, che cura, oltre che la parte tecnica, anche la parte creativa del programma. Io sono Enrico Pagliarini e con noi Luca Colombo, che è country manager di Facebook per l'Italia. Vi ricordo ancora una volta il nostro numero verde per chiamarci per parlare di Facebook in onda, 800 24 0024. Luca, una delle cose che molti ascoltatori scrivono o di cui si preoccupano è, così partiamo subito con un tema molto caldo, quello della privacy, perché uno dice: ma io scrivo una cosa su Facebook e poi se ho 100 amici, che poi non sono sempre amici, magari sono anche conoscenti, però si chiamano tutti amici, tutto quello che io scrivo lo vedono, lo vede almeno quella platea. Poi alcune cose le possono vedere anche, diciamo, gli utilizzatori occasionali di Facebook. Questo problema come si gestisce, come lo gestisce, ma soprattutto è un problema, perché mi rendo conto che questa cosa per alcuni, soprattutto i più giovani, non è assolutamente un problema. Sì, esatto, dipende dalle fasce demografiche, dalle fasce d'età, però certamente questo è un tema chiave e cardine che mi permette di sottolineare quanto oggi Facebook permetta di personalizzare la propria esperienza, perché ci sono tante impostazioni, c'è una console di gestione dei propri privacy setting che permette di essere così granulare che dà una libertà totale all'utente di definire ciò che si vede, ciò che non si vede. Uno può anche costruire un profilo che per assurdo è completamente privato, quindi tanti utenti sono abituati a entrare in Facebook magari poco attenti a quello che è l'impostazione della privacy, non sapendo appunto che ci sono queste impostazioni, e invito tutti quanti a guardare appunto il proprio profilo, andare nella parte di account setting e vedere quello che si può fare, perché è veramente tanto. Questo ci dice anche che non è proprio un divertimento, non stiamo parlando di un giocattolo, è una cosa che va presa seriamente. Ecco, voi da questo punto di vista vi definite un certo social network, certo, questo è evidente, ma un gioco, un passatempo, una cosa per l'intrattenimento, che cosa? Perché in realtà poi c'è tutta anche la parte di business. Per noi è un modo per connettere e condividere cosa? Contenuti, passioni, relazioni con persone. Ovviamente tutto questo dipende un po' da quello che vogliono fare gli utenti. Per noi è qualche cosa di reale Facebook, ossia non tanto Facebook è reale, ma è un soggetto, è un qualche cosa all'interno del quale realizzare e descrivere la propria vita personale. Cioè, mi viene in mente che così come negli anni '80 un'azienda finlandese scelse come slogan Connecting People, cioè che è la Nokia, voi fate il Connecting People del nuovo millennio. Se vogliamo metterla in questo senso, può starci. In generale quello che si evidenzia nella società è che le persone vogliono non soltanto connettere ma anche condividere contenuti, e questo, se vuoi, è un po' l'elemento differenziante. Quello che, se vuoi, ci collega alla tua domanda precedente è un fattore che forse tanti dimenticano. Oggi su Facebook, per policy, le persone devono inserire informazioni reali. Quando scopriamo o viene messo in evidenza un account che non è reale, quel soggetto, quel profilo viene cancellato. Cioè, quindi, se io domattina, oggi pomeriggio, faccio un account, quindi un profilo nuovo con scritto Paolo Corleoni, che non sono io, è la persona che sta di là dal vetro, voi se lo scoprite lo disabilitate. Come fate però a scoprirlo? Ci sono l'elemento sul quale noi facciamo affidamento sono gli utenti. Una cosa che spesso viene trascurata è l'utente che segnala attività non regolari o profili non reali o aziende che non sono aderenti a tutta una serie di parametri di policy di Facebook. Queste segnalazioni arrivano a Facebook, quindi gli utenti per noi sono un elemento chiave che ascoltiamo costantemente. Ci sono delle persone in giro in tutto il mondo che ascoltano quello che gli utenti ci vogliono raccontare, e attraverso queste segnalazioni noi evidenziamo eventuali irregolarità o comunque profili non aderenti alla realtà. Questo è molto internet, cioè un po' quello che succede su Wikipedia, quelli che si domandano: ma se uno scrive una stupidaggine su Wikipedia, stessa cosa. Assolutamente. Decine di migliaia di utenti la segnalano, la stupidaggine salta fuori. Ma queste cose le fate anche dall'Italia? Quindi, diciamo, se arriva una segnalazione dall'Italia, magari di una persona che non è su Facebook e scopre che qualcuno ha aperto un proprio profilo su Facebook, diciamo, agite velocemente anche da qua? In generale la segnalazione avviene attraverso Facebook. Ci sono in tanti punti della piattaforma riferimenti a report, quindi report in generale significa segnala qualche cosa, lo possono fare attraverso la piattaforma o a volte entrando in contatto anche con la nostra realtà locale. Quando noi veniamo a conoscenza di situazioni di questo genere, sicuramente poi ci mettiamo in contatto con i nostri colleghi internazionali. Adesso ti faccio ascoltare una intervista che ho fatto questa mattina a Federico Capece, che è amministratore delegato di 2.0 Research, per capire quanto è ampio il fenomeno dei social network in Italia, che cosa sta cambiando. Poi naturalmente lo commenteremo. Ma le stime arrivano ai 20 milioni di utenti, pari a circa l'80% di tutti gli utenti internet. La cosa che registriamo per la prima volta quest'anno è una sorta di crescita zero dopo tanti anni di crescita vertiginosa, quindi sembra quasi che la partecipazione al 2.0 abbia raggiunto un po' livelli di saturazione. E questo per quale motivo? Ma sostanzialmente perché è la crescita stessa delle connessioni internet che si è un po' rallentata, ed è un fenomeno che si trova anche in altri paesi europei occidentali, in tutte quelle situazioni in cui l'utilizzo dei social network è una modalità di fruizione del web. Quando invece avviene che è proprio Facebook e social network ad essere la motivazione per connettersi a internet, e allora lì i tassi di crescita sono i più alti, e questo avviene oggi in paesi più in via di sviluppo non occidentali. Anche l'arrivo dei social network su piattaforme mobili non ha incrementato molto la fruizione di questi social network, o forse sono le stesse persone che lo fanno sia da una parte che dall'altra? E noi registriamo un 15% degli utenti 2.0 che partecipa anche tramite mobile, quindi smartphone e tablet. È un dato interessante ed è forse, diciamo, una delle novità più rilevanti, anche se appunto stiamo parlando ancora di nicchie. Senti, a proposito di età, visto che voi analizzate anche la popolazione in termini di età, stiamo parlando di giovani come molti pensano o una popolazione invece più eterogenea? Ma è molto eterogenea oggi, gli stessi numeri di diffusione non potrebbero far dire altrimenti, e proprio le crescite maggiori che si sono avute in Italia sono state causate dagli adulti e dai senior. In realtà poi ci sono altre componenti di eterogeneità molto interessanti, quali proprio le motivazioni di partecipazione alla personalità degli individui. Chi utilizza oggi Facebook e i social network con una logica più di broadcasting, quindi di consultazione, quasi fosse la TV o l'altro mezzo, a chi invece attribuisce a questo mezzo un ruolo molto più di partecipazione attiva e di contribuzione. Dal vostro osservatorio Italia 2.0, che cosa mi puoi dire sui nomi dei social network? Perché quando parliamo di motori di ricerca, purtroppo, per fortuna, dipende dai punti di vista, parliamo di Google sostanzialmente. In questo caso parliamo sostanzialmente di Facebook o c'è qualche cos'altro? Allora, sostanzialmente sì, nel senso che è la marca più conosciuta, il social network più utilizzato. È vero che poi c'è una lunga coda veramente molto molto sterminata, che parte da social network comunque molto utilizzati come Twitter, LinkedIn, lo stesso YouTube, ma poi questa coda diventa davvero molto molto lunga nelle varie nicchie di social network e forum che si trovano oggi in rete. Adesso per noi c'è una breve pausa, la Viabilità 2024 vi aspetta tra circa un minuto. Numbers 2024. Numbers. Quanti sono gli utenti attivi su Facebook in tutto il mondo? Numbers. 2024. Riprendiamo, stavo discutendo con Luca Colombo dei numeri di Facebook, perché prima vi abbiamo domandato quanti sono gli utenti attivi su Facebook in tutto il mondo. Direi più che attivi gli utenti registrati, poi ci sono alcuni che aprono Facebook tutti i giorni a tutte le ore, alcuni che lo fanno saltuariamente. Comunque, dati internazionali ci dicono che sono circa 600 milioni, però tu, Luca, dici ufficialmente 500 milioni. Noi l'ultimo dato che abbiamo comunicato è stato nel luglio del 2010 ed erano 500 milioni. Siete estremamente prudenti sui numeri perché avete fatto domanda di quotazione in borsa, quotazione che dovrebbe arrivare il prossimo anno? Al momento non abbiamo fatto domanda di quotazione. Beh, diciamo, quello che abbiamo comunicato, sì, che diciamo che tutto il mercato dà per scontato che voi arrivate in borsa. Sì, sì. Daremo pubblicamente i dati nel 2012. Sì, però ci andate in borsa. qualche cosa che tutti si auspicano, qualcuno forse ne parla eccessivamente, vediamo. Ad oggi viviamo in un mondo così veloce che è difficile anche per vedere da qua a sei mesi cosa succederà. Hai fatto bene a dirlo, effettivamente negli Stati Uniti c'è chi si domanda se non ci sia una bolla nuova del 2.0, hai fatto bene ad essere prudente su questo punto. Allora, prima ci diceva Capecci di 2.0 Research che siamo arrivati ad un tasso di saturazione, cioè ormai tutti gli utenti internet, o comunque la maggior parte degli utenti internet, utilizza i social network, che per la stragrande maggioranza significa Facebook. Siete d'accordo? Ma in generale quello che noi continuiamo ad osservare è una crescita, quindi non vorrei contraddire quello che emerge dalle ricerche, però il dato interno che noi rileviamo non è in linea con questa evidenza. Ti faccio soltanto un esempio: io quando sono entrato in azienda 4 mesi fa comunicavamo come dato rilevato internamente per il numero di utenti attivi nel mese in Italia 18 milioni. Oggi noi abbiamo già superato quella soglia, siamo a 19 milioni, quindi quando prendi 19 milioni sono 19 milioni di utenti attivi nel mese, quindi come hai detto tu, utenti registrati. Che è incredibile però, perché adesso vorrei richiamare l'attenzione su questo numero. Radio 24, adesso i dati nel mercato della radiofonia sono un po' vecchi perché c'è qualche problema nella organizzazione dell'indagine d'ascolto, ma gli ultimi dati ci dicono insomma che Radio 24 ha attorno ai 2 milioni di ascoltatori al giorno. Quando parliamo di cifre vicine a quelle che tu hai citato, parliamo di Festival di Sanremo, ad esempio, che è stato visto da 13 milioni, punte di 19 milioni con Benigni. Tu mi stai dicendo che tutti i giorni su Facebook, in Italia solo, sono 19 milioni nel mese. Fai bene a citare il dato giornaliero che non ho menzionato, che sono 12. Che è incredibile. Oggi, tutti i giorni, sulle 24 ore in Italia, sono 12 milioni di utenti che si collegano. Per quanto tempo? Me lo puoi dire? Perché questi sono dati forse... Non ho questo numero. Vengono spese circa 4 ore al mese sulle rilevazioni di Nielsen. Non ho questo dato internamente. Come fate i soldi? Perché questo è un servizio gratuito. Prima c'era un ascoltatore che diceva: sono disposto a pagare un euro, Dino da Padova, per personalizzare il mio profilo su Facebook. Dino, non ci hai detto se sei disposto a pagarlo ogni volta che cambi il profilo oppure tutti i mesi o tutti i giorni? Una delle fonti di revenue, quindi di fatturato per Facebook, è la pubblicità. Molto spesso le persone non vedono o comunque non rilevano questo aspetto, proprio perché la pubblicità è molto poco invasiva nei confronti del consumatore. Nella filosofia di Facebook il consumatore è sempre al centro, vogliamo che sia sempre nelle condizioni di fare al meglio quello che si può fare con la nostra piattaforma. Comunque ci sono oggetti di pubblicità che sono presenti sia nella home page, quindi nella propria bacheca personale, che nel proprio profilo. Diverse forme di offerta, però sostanzialmente la pubblicità è un elemento importante che, se vuoi, giustifica anche la nostra presenza sul territorio, perché lavoriamo con le aziende che fanno comunicazione e hanno quindi necessità di entrare in contatto con consumatori. Magari di pubblicità parliamo anche dopo. Vorrei sentire la voce di Alessandro, che ci chiama da Verona. Buongiorno Alessandro, ti ascoltiamo. Buongiorno, io volevo porre un quesito. Mi sentite? Certo. Io faccio il medico, sono un medico di famiglia, e così per caso, un po' per gioco, 3 mesi fa ho provato a mettermi anche su Facebook e ho già 250 amici. Allora mi sono reso conto che è abbastanza potente sto Facebook. Stavo pensando, potrebbe essere ipotizzabile fare, non so, una finestra, un canale comunicativo con alcuni miei pazienti particolari che hanno particolarmente bisogno di comunicare con me, hanno disabilità fisiche per cui non possono venire in ambulatorio, e creare quindi una specie di piattaforma dove poter comunicare con loro, visto che è così diffuso anche tra i pazienti Facebook. Giusto. Dico adesso, non per non farli usare Facebook, potrebbe utilizzare un sistema di messaggistica in tempo reale, o Microsoft MSN, oppure Skype, oppure Google. Beh, lo stesso Facebook ha, Luca, il sistema di messaggistica. Ma quello che ci chiede Alessandro, si può fare? Ma in generale Facebook è una piattaforma, definiamo tecnologica, che è più, diciamo, un termine utilizzato dagli esperti. In altre parole, è un qualche cosa che permette di costruire diversi servizi. È come se mettessimo a disposizione tanti piccoli elementi che poi incastrati l'uno con l'altro permettono di costruire diverse tipologie di offerta, diversi servizi. Quando parliamo di piccoli elementi sono la tua pagina personale, nella tua pagina puoi inserire una bacheca con dei contenuti testuali ma anche delle immagini, puoi anche mettere del video. Quando parlavi prima di messaggistica abbiamo l'email, abbiamo la chat, oggi con il servizio che abbiamo lanciato un paio di mesi fa sarà sempre più integrato. Quello che è Facebook quindi è un insieme di tanti piccoli, come se fossero dei Lego, che se uno vuole può unire con un minimo di competenze di programmazione informatica, quindi sviluppo, si possono anche utilizzare quelli che si chiamano API, quindi piccoli. Cioè, quindi possono essere costruite anche cose di terze parti. Assolutamente. Ma ecco, ad esempio, uno può fare una lista, ad esempio, dei pazienti che citava Alessandro e parlare solo con quella lista? Può costruire un gruppo, può costruire un gruppo che è composto dalle persone che sono suoi pazienti, e a quel punto il gruppo può essere aperto oppure chiuso. La comunicazione peraltro è anche riservato sia in modalità sicura, abbiamo lanciato recentemente la modalità HTTPS, quindi che permette di... Comunque può fare un gruppo. Assolutamente, quindi all'interno di questo contesto può fare una comunicazione aperta oppure poi comunque... dialogare direttamente nella comunicazione one to one, che è tipica. Certo, però magari lui dice: io tra gli amici ho anche i miei amici veri, insomma, certo, non solo i miei pazienti. Però quindi, il gruppo, certo, definisce, nel gruppo definisce quali sono gli utenti che vuole inserire. Certo, oppure uno può ad esempio fare un altro profilo con scritto, non so, pazienti, medico, eccetera eccetera. Ma tendenzialmente, come dicevo prima, cerchiamo il di gruppo, avere le reali, le persone fisiche reali, e quindi non vogliamo costruire seconde realtà. Ho capito, okay. Michele da Padova, buongiorno, l'ascoltiamo. Buongiorno, volevo porre un quesito all'account manager di Facebook e volevo chiedere se in futuro ci saranno dei cambiamenti sostanziali alle pagine fan, chiamiamole così, e se cambieranno, se verranno avvisati gli utenti e chi gestisce quelle pagine. Che tipo di cambiamenti ti piacerebbe vedere? Perché magari cambiano il colore. No, sulla struttura innanzitutto, e dalla possibilità di customizzarle un po' a piacimento, di più di quello che sopra adesso. Sì, maggiore personalizzazione quindi. Sì. Chiaro. Generale, grazie Michele. Prego. In generale Facebook è in costante evoluzione, ci sono tanti cambiamenti che avvengono a volte senza che ne venga data molta evidenza o comunicazione. Le pagine sono, definiamolo così, uno dei cuori, se vogliamo, di Facebook, è un componente centrale, vuoi per i profili delle persone ma vuoi anche per le aziende. Le fan page stanno cambiando proprio nell'ottica di migliorare, di avere una maggiore evidenziazione di quelli che sono i contenuti maggiormente utilizzati. Come dicevo prima, queste modifiche derivano da quello che ci arriva come feedback dagli utenti, quello che ci arriva come stimolo dagli utenti, e altrettanto nel metterle live, quindi nell'andare a renderle disponibili ai consumatori, ascolteremo quello che poi il popolo di Facebook ci racconterà, perché non è detto che noi si faccia sempre la scelta giusta. Uno, gli stimoli degli utenti, la messa live di pagine e l'ascolto degli stessi ci permetterà di migliorarle sempre di più, quindi in generale questo è l'orientamento. Sicuramente è vero che molti degli utenti non sono giovani, cioè come dicevamo anche poco fa ascoltando Capeci. Ma uno dei miti è che Facebook è per ragazzini, uno dei miti è che la popolazione di Facebook è molto giovane, quindi dai 13 anni ai 18-24, quindi questa... E non è vero? Guarda, il 40% delle persone che oggi sono su Facebook è un dato che arriva da un istituto di ricerca quale Nielsen, ma che rispecchia quello che vediamo anche internamente, ha più di 35 anni, quindi una buona fetta della popolazione, parlo dell'Italia ovviamente in questo momento, una buona fetta della popolazione italiana su Facebook ha un'età sicuramente matura. Le fasce che crescono maggiormente, un po' come si diceva prima, sono quelle più avanzate, quindi percentualmente parlando i giovani sono ben rappresentati, le altre fasce stanno crescendo molto velocemente. Dunque Fabio, che ci scrive un SMS da Modena, dice: come producete reddito, l'abbiamo detto, cioè con la pubblicità, quanto fattura Facebook mi sa che non lo possiamo, cioè che non lo possiamo dire, non lo dite voi. Ma come dicevamo prima, comunicheremo e renderemo pubblici i nostri numeri un po' più là nel tempo. Ad oggi, non essendo un'azienda pubblica, definiamola quotata, così, certo, quotata, non forniamo queste informazioni. Certo, comunque voi siete un'azienda però italiana, cioè tu sei il countermeasure dell'azienda Facebook italiana. C'è un'azienda presente in Italia, sì. Italiana. Sì. Dunque, un'altra domanda interessante è, all'inizio della trasmissione abbiamo parlato di questi servizi che sono stati lanciati dalla Apple e da Google per cercare di aiutare, certo con un certo interesse e con una percentuale di commissione piuttosto interessante, comunque gli editori o comunque chiunque fornisce contenuti in rete. Voi avete ufficialmente 500 milioni di utenti, quindi sareste un partner fantastico perché avete già il profilo e quindi 500 milioni di credenziali che possono essere utilizzate. È ipotizzabile un servizio di questo genere? Ad esempio il sistema di micropagamenti, che è una cosa di cui si discute molto in rete e è vista come un business colossale per i prossimi anni, è una cosa che immagino vi interessi. Ma in questo momento non abbiamo nulla nei piani che io conosco ovviamente, ma in generale che vada in quella direzione. Quello che, se vuoi, trovo abbastanza assimilabile a questo tema è qualcosa di già presente su Facebook, si chiama Facebook Credits. È una sorta di moneta virtuale che permette di utilizzare o di accedere a alcune funzionalità delle applicazioni o dei giochi che sono accessibili via Facebook. Giochi che non vengono sviluppati da Facebook, ma da terze parti. Sono soldi veri questi? Vengono acquistati con dei coupon piuttosto che attraverso alcuni partner, vedi PayPal, quindi sono credits che vengono acquistati con delle transazioni reali e questi poi Facebook Credits sono la moneta attraverso la quale una persona viene permesso di accedere ad alcune funzionalità piuttosto che di utilizzare alcuni giochi e quant'altro, quindi è una sorta di moneta virtuale. Non so quanto sarà in linea con quello che è il disegno che ipotizzavi tu prima rispetto, certo, al mondo editoria, però da qui a uno potrebbe anche fare un accordo con un quotidiano online e dire puoi utilizzare i Facebook Credits per acquistare l'abbonamento del tal quotidiano. Questa potrebbe essere una roba fattibile già domani? Ad oggi io non ne ho evidenza, non sono addentro nella parte tecnica per poter dire che sì, è fattibile, però. Che altri servizi, perché alcuni degli esperti del mercato dicono ma chiedi a Colombo che cosa vorrà fare Facebook da grande, che è una delle grandi domande che si fanno, perché tutti immaginano che avendo questa base utenti incredibile, che è anche uno dei motivi per cui i valori che ipoteticamente in futuro in borsa potrebbe avere Facebook sono così elevati, perché abbiamo sentito nelle settimane scorse parlare addirittura di 50 miliardi di dollari. Se ti facessi questa domanda, e ti faccio questa domanda, che cosa vorrete fare da grande? Cioè quali altri servizi potreste guardare? Che ne so, ad esempio la telefonia. Google ha lanciato un servizio di telefonia negli Stati Uniti. Per voi sarebbe un attimo fare una cosa del genere? Ma in generale c'è ancora molto da fare rispetto al servizio che oggi è disponibile online. Se seguiamo un po' la tua domanda in termini di evoluzione futura, mi sento di fare un riferimento al mondo mobile. Prima nel Capeci faceva accenno al fatto che il mondo mobile non è ancora sviluppato. Uno degli elementi che noi vediamo maggiormente in crescita è la componente cellulare. Oggi ci sono 4 milioni di utenti che utilizzano ogni mese in Italia Facebook da mobile. È un'area che, come dicevo, è in forte crescita. Sicuramente l'integrazione tra mobile e web, l'espressione di Facebook attraverso un cellulare e quindi la messa a disposizione di servizi per quest'ultimo, sono un'area sulla quale stiamo lavorando parecchio. 31 di gennaio abbiamo lanciato Deals, che è un modo per il consumatore di approfittare di offerte commerciali presso un punto vendita attraverso Facebook. Poi ne parliamo. Adesso abbiamo una breve pausa. Simpaticamente un ascoltatore ci scrive: quando metterete il pulsantino dislike, cioè non mi piace, che è il contrario di quello che sta andando molto di moda oggi, cioè il tasto mi piace, I like. Questo è 2024, una breve pausa, ci risentiamo tra poco. 2024. Abbiamo gli ultimi minuti per parlare con Luca Colombo, che è country manager di Facebook per l'Italia. Tu, Luca, sei costretto a viaggiare molto con gli Stati Uniti o riesci a dialogare con i tuoi capi via Facebook, ad esempio? Via Facebook e via conference call. Lo strumento virtuale è al centro delle nostre giornate, però ogni tanto capita di andare negli Stati Uniti, più che altro a Londra, meno Stati Uniti. Andrò ad aprile per un evento che ci sarà per tutto il mondo, che riguarda tutto il mondo, però non moltissimo. Sì, sono più spesso le aziende della old economy a viaggiare molto, perché non hanno ancora capito che ci sono questi strumenti fantastici che possono sostituire Facebook. Leggo alcuni SMS, anzi sentiamo Gianfranco che ci telefona da Ravenna. Gianfranco, ti ascoltiamo, buongiorno. Buonasera a tutti e grazie dell'opportunità. Una domanda, se un'azienda si vuole in qualche modo avvicinare a Facebook o comunque vuole investire su Facebook, anche aziende di grandi dimensioni o banche di grandi dimensioni, è previsto un servizio di consulenza da parte della società, perché l'approccio a Facebook è complicato. Sicuramente non facile. Sì, sì, sono d'accordo con te, Gianfranco. È vero. Io ripeto che l'approccio a internet in generale non è semplice, perché molte aziende credono che sia sufficiente aprire un sito internet, fare pubblicità su internet. Invece internet è uno strumento straordinario, ma molto complesso, e quindi bisogna usare i piedi di piombo, anche se ormai bisogna esserci. Anzi, se uno non è su internet, forse come che non esista a questo mondo. Grazie Gianfranco. Luca Colombo, prego. La risposta è assolutamente sì, nel senso, anzi, è il nostro, non vediamo l'ora di non vediamo, cioè, nel senso, è il nostro lavoro. Sostanzialmente la struttura commerciale locale, ma anche dei colleghi che stanno in altre parti del mondo, in particolare a Dublino, hanno questo come obiettivo: lavorare con le aziende e spiegare come sfruttare al meglio Facebook per comunicare con i propri clienti, con altri soggetti che possono essere interlocutori per fare business. Quindi dalla comunicazione, inteso advertising, ma anche l'utilizzo di applicazioni, l'utilizzo di giochi, fino alle pagine. Quindi il nostro ruolo è proprio questo. Ovviamente speriamo di avere delle pagine, dei contenuti già su Facebook che spieghino questo, però a volte non è sufficiente, quindi questo è il nostro ruolo. Come fa uno a contattarvi? Facebook.com, c'è la possibilità di farlo attraverso sul sito, nella parte bassa del sito c'è scritto come fare pubblicità con Facebook, e lì c'è modo di contattarci. Davide da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Prego. Credo che casco proprio a fagiolo, perché ho provato a contattare la parte del sito come fare pubblicità su Facebook, sono arrivato in qualche modo a capire come muovermi, ma mi sono dovuto fermare perché non era possibile fatturare ad un'azienda con partita IVA, perché l'unica fatturazione possibile era al mio profilo, quindi al mio nome, cognome e codice fiscale. Non so come mai, però mi sono dovuto fermare lì, nel senso che non potevo incastrare la fattura alla mia azienda. Grazie Davide, sentiamo cosa ci risponde Luca. Sì, assolutamente, c'è possibilità di configurare il proprio account affinché sia fatturabile, mettiamolo in questa maniera. Si può pagare con carta di credito o con altre forme. Qualora non ci fosse la possibilità, può comunque chiedere richiesta di supporto. Sempre all'interno di queste pagine ci sono dei riferimenti verso il supporto, e qualche collega nostro che sta in particolare in Irlanda, in questo caso, che parla lingua italiana, le potrà sicuramente dare una mano. Comunque, in caso di difficoltà, qualora non si riuscisse a procedere con l'immissione, la costruzione della campagna, ripeto, c'è un servizio di supporto che è proprio deputato a questo. Sentiamo Domenico da Bari, anche che se abbiamo un minuto circa. Domenico mi ha scritto un'email poco fa, gli ho detto: ma perché non ci chiami il numero verde? Domenico, benvenuto. Esatto. Salve. Vorrei un minuto però abbiamo. Sì, l'email ho semplicemente contestato al country manager, che noto un po' di ipocrisia, perché secondo me Facebook è un luogo molto che soffre di pettegolismo mediatico, così come la nostra società in realtà, e che tende a mettere in relazione quanti più fatti, persone e informazioni possibili, come nella caratteristica dei database relazionali, e che nessuno sa, forse, o pochissimi sanno, che se io conosco l'email di una persona, la persona si può essere chiamata anche XYZ, ma io la trovo, la metto in relazione a una serie di soggetti, pochissimi sanno gestire la privacy, e Facebook ci sguazza in questa ignoranza. Domenico, questo però non è un problema di Facebook, il fatto che molti siano pettegoli e che molti siano ignoranti nell'utilizzo dei media è un problema degli utenti, se non sbaglio. Poi, ma è alimentata anche dalla scarsa chiarezza di Facebook, sostanzialmente. E sì, questo... io sono sempre molto prudente nel dare diciamo, la colpa ai media così in generale. Però la domanda è assolutamente lecita, e siamo sempre, mi piaceva sentire assolutamente la voce di Domenico. Siamo sempre in ascolto, e le critiche sono sempre le benvenute laddove servono a migliorare il servizio. Quello che noi facciamo è mettere in connessione le persone, come dicevo prima, e uno dei temi sui quali spingiamo, l'abbiamo detto all'inizio della trasmissione, è il concetto della privacy. Molto spesso ci sono elementi che vanno sottolineati, quello della privacy è uno di questi. Le persone hanno a disposizione degli strumenti molto sofisticati, forse non sufficientemente utilizzati. Anche con queste trasmissioni cerchiamo di fare educazione in questo senso e aiutare gli utenti ad avere meno problemi possibili. Infatti, una delle cose che cerco sempre di dire a 2024, la tecnologia è una straordinaria opportunità, bisogna essere più intelligenti nell'uso appropriato delle tecnologie. Grazie a Luca Colombo, che magari rinviteremo, visto che ci sono molti messaggi che non abbiamo fatto in tempo a leggere, e anche molte telefonate. A presto. Buon Grazie lavoro. A voi. Adesso ci fermiamo, una breve pausa, riprendiamo tra un minuto. 2024. E adesso il nostro appuntamento in collaborazione con National Geographic Channel, canale 403 della piattaforma Sky. Questa settimana parliamo di aeroporti. Questa è Osaka, l'antica capitale del Giappone e terra di battaglia degli ultimi samurai. Ora è una città moderna che danza al ritmo della tecnologia. Con 2 milioni e 600 mila abitanti, la città di Osaka è riuscita a diventare negli ultimi anni il fulcro industriale e commerciale del Giappone occidentale. Ma per competere con la sorella maggiore, Tokyo, Osaka deve escogitare un sistema per attrarre a sé sempre più investimenti. La risposta potrebbe essere la costruzione di un enorme aeroporto. Ma il governo deve affrontare un problema di proporzioni gigantesche. Dove si può costruire un aeroporto in grado di gestire l'enorme traffico aereo, rispettando al contempo la regolamentazione sull'inquinamento acustico? Se sulla terraferma non c'è spazio per far atterrare gli aerei, perché non utilizzare un'isola? L'unico problema è che bisogna prima costruirla. Nel 1987 inizia la costruzione della più grande isola artificiale mai realizzata. È profonda 18 metri ed è al centro della baia di Osaka. 7 anni dopo, il mondo intero assiste all'apertura del primo aeroporto internazionale che sorge in pieno oceano. È l'aeroporto internazionale di Kansai, ormai uno degli scali più trafficati del Giappone, con oltre 300.000 passeggeri a settimana, aperto 24 ore su 24. Costruito a 5 km dalla costa, poggia su 530 ettari di rifiuti riciclati, formando un enorme rettangolo lungo più di 4 km e largo 1200 metri. Un'area grande quanto l'intero centro della città di Osaka. Collegato alla terraferma con il ponte a due livelli più lungo del mondo, Kansai accoglie ogni anno 55.000 aerei. L'atterraggio su quest'isola aeroporto è un'esperienza unica sia per i piloti che per i passeggeri. Durante l'atterraggio sembra di finire in mezzo all'acqua. Fa davvero paura. È la più grande opera pubblica del XX secolo, dal costo complessivo di 15 miliardi di dollari. Ha richiesto 1 milione di operai e oltre 10 milioni di ore di manodopera. Per realizzare questa struttura straordinaria, gli ingegneri giapponesi devono riscrivere i manuali di ingegneria. Quello che state ascoltando è il documentario sull'aeroporto del Kansai in Giappone, costruito su progetto di Renzo Piano tra il 1987 e il 1994. Un documentario della serie Megastrutture che potrete vedere a partire dal 7 marzo tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 15.30 su National Geographic Channel. Ma come stanno cambiando gli aeroporti grazie alla tecnologia? Ne abbiamo parlato con Carlo Criscuolo, ingegnere e pilota d'aerei e amministratore delegato della Techno Engineering 2C, che da oltre 20 anni opera nel settore aeroportuale. Gran parte dell'aeroporto è quello che non si vede, cioè l'aeroporto che non si percepisce fisicamente. L'aeroporto inizia molti, molti, molti chilometri prima della pista e termina molti, molti chilometri dopo. Per capire, diciamo, che cos'è un aeroporto, bisogna anche pensare a tutta la fase di discesa finale, di avvicinamento e di atterraggio, e viceversa tutta la parte di decollo, salita iniziale, fino a quando l'aereo rientra in aerovia. Diciamo, quindi intorno all'aeroporto ci sono gli ultimi 15 minuti di volo e i primi 10-15 minuti di volo dopo il decollo. Oggi ovviamente, grazie alle nuove tecnologie di controllo del traffico aereo, non c'è più una separazione detta procedurale, c'è una separazione che veniva data per tempo tra un aereo e un altro, o per riporti di posizione, quindi stiamo lasciando, non so, un determinato punto di navigazione, ma quasi tutto il traffico, in Italia sicuramente tutto il traffico ormai è sotto controllo radar, e questo ci consente di ridurre moltissimo le separazioni tra un aereo e quello successivo, e quindi si è potuto aumentare in maniera estremamente significativa la capacità di un aeroporto. Quindi diciamo che le file di aerei al decollo o ad esempio gli atterraggi che si susseguono in modo molto ravvicinato, questa è una cosa che fino a qualche anno fa non era possibile fare. Oggi un grande aeroporto, ad esempio italiano o internazionale, quanti atterraggi o decolli riesce a gestire in poco tempo? Diciamo che la capacità teorica di una pista è di arrivare intorno ai 54-55 movimenti all'ora, quindi diciamo il tempo di occupazione di una pista si aggira intorno al minuto per un'operazione di decollo e di atterraggio. Direi che un sistema come può essere Fiumicino Malpensa, con 2-3 piste, ovviamente riescono a tenere il livello di movimenti molto alto, però non è soltanto la pista e il sistema di controllo degli avvicinamenti e degli atterraggi che incide sulla capacità di un aeroporto, ma è l'anello più debole della catena. Alcune volte sono le vie di rullaggio a terra, il numero delle piazzole di parcheggio davanti all'aerostazione e così via, quindi diciamo è quello che purtroppo molte volte va a incidere sulla capacità. Direi che una pista può fare teoricamente fino a 60 movimenti l'ora, generalmente ci si attesta a numeri più bassi, sia intorno ai 30-35 movimenti ora per pista. E diciamo che siamo arrivati oramai al livello di saturazione fisica, più di così forse non si riesce a fare. Sì, diciamo c'è lo spazio di frenate e di accelerazione degli aerei, molte volte i passeggeri non sono affascinati dalla corsa di decollo, non se ne rendono conto, però diciamo dal rilascio freni a quando l'aeroplano inizia la rotazione e stacca le ruote da terra, generalmente sono circa 28, 30, 32 secondi, poi c'è un tempo di occupazione, diciamo che l'aereo ancora sta sulla traiettoria della pista, fino a quel momento diciamo la pista è ancora considerata occupata, quindi non può decollare l'aereo successivo, molte volte anche per problemi di scia, di turbolenze di scia, né può atterrare l'aereo che sta in sequenza in atterraggio. Quando si raggiungono quei 35-40 movimenti l'ora su una pista, siamo arrivati molto vicini al limite fisiologico di capacità di una pista, bisogna pensare a realizzarne un'altra. Senta, lei ha citato più di una volta uno degli elementi importanti dell'aeroporto che è la pista. La pista non è come un'autostrada, una striscia d'asfalto, è una cosa piena di senso. Ci sono le luci perché quelle le vediamo, ma anche c'è qualcosa di più, ci sono dei sensori annegati nella pista. Come è costruito questo elemento importante? Intanto una pista mediamente è lunga dai 2000 ai 4000 metri, diciamo, ecco, questo tanto per avere un'idea, un ordine di grandezza, e la sua larghezza varia tra i 45 e i 60 metri. All'interno di questa pavimentazione ci sono sempre di più una quantità di luci, di segnali notevolissima per poter operare in condizioni di basso o bassissima visibilità, e consideri che alcuni aeroporti italiani possono operare con una portata visuale di pista orizzontale di soli 75 metri e visibilità verticale zero. Per poter operare in quelle condizioni servono sicuramente degli impianti voli notte estremamente avanzati che poi guidino anche il pilota, che non è soltanto atterrare ma anche quello di poter portare l'aereo dopo l'atterraggio, quando si è fermato in pista, poterlo poi guidare fino al parcheggio, altrimenti l'aeroplano rimarrebbe lì in pista. E consentirgli ovviamente dal parcheggio di arrivare fino alla pista per le operazioni di decollo. Mentre è facile, tra virgolette, poter far atterrare un aereo con condizioni di bassissima visibilità, è molto più difficile, anche se questo può sembrare strano per l'ascoltatore, far poi rullare il velivolo a terra e per alcuni chilometri in certi aeroporti per poterlo portare fino al parcheggio. Quindi c'è tutta una serie di sensori che rilevano il passaggio del velivolo, il senso del moto, quindi se va da destra a sinistra o da sinistra a destra, la velocità con il quale il velivolo sta transitando e possibilmente anche riconoscerlo, cioè riconoscere il tipo di velivolo che sta transitando. Questo sia per evitare falsi allarmi, immagini possono esserci e mezzi dell'ispezione, mezzi di rampa o anche animali alcune volte che possono transitare e far scattare certi allarmi, e anche per identificare, avere una maggiore identificazione dell'aereo che si sta seguendo, diciamo della traccia dell'aereo, in quanto alcuni sistemi servono al controllore che sta in torre per poter controllare dov'è il velivolo, ma altri servono al pilota per sapere dove lui sta e poterlo guidare al parcheggio. Una pista di questo tipo con sensori di questo tipo è utilizzata nei principali aeroporti italiani o in pochi? Diciamo ancora in pochi. Una delle prime attrezzate in questo senso è la pista di Venezia Tessera, il Marco Polo. Ed è tutto per questa puntata di 2024. Ringrazio Viola Bottoni e Giorgio De Luca. In regia per la parte tecnica Paolo Corleoni. Troverete tra poco il file MP3 di questa trasmissione. Io sono Enrico Pagliarini. Non dimenticate il nostro indirizzo di posta elettronica 2024@radio24.it. Ci trovate anche su Facebook. Basta cercarci scrivendo in cifra 2024, quindi 2024. Chiedo alle persone che ci hanno inviato SMS di magari scriverci anche via mail, perché vorrei rispondere ad alcuni, e quindi spero che mi scriviate. Ci risentiamo la prossima settimana, tra poco le notizie di GR24, poi a seguire lo sport con Carlo Genta. 2024.